Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza inizia prove tecniche di trasmissione anche oggi, mercoledì 11 novembre del 2015. Il nostro sito internet www.ondarossa.info anche per ascoltarci attraverso lo streaming. Il contatto telefonico è 06 49 1750. L'indirizzo email è ondarossa@ondarossa.info e questa pagina, o meglio questo programma, ha una pagina Facebook che è prove tecniche di trasmissione /disorder. Spazio attivo esistente dal 1992 che si occupa di industrial, dark ambient, noise, sperimentazione in genere. Andremo avanti fino alle 22.30, allorché ci sarà 25 o'clock. Salutiamo anche gli amici di Next Place Sounds, già connessi in numero sufficiente. Un saluto ad Antonio, Raffaele, Bruno. E come facciamo da qualche settimana a questa parte, andiamo un po' a vedere, analizzare, sentire ed apprezzare possibilmente questa compilation proveniente dall'Est Europa che va a trattare per l'appunto la scena sperimentale proveniente da quelle lande lontane. Questa sera ci ascoltiamo due progetti abbastanza sotterranei, devo dire. Il primo si chiama Nula CC, sperando anche di azzeccare il nome, è abbastanza complesso. Il pezzo è 56968, è Warning. E poi Bardo Senetit Cube, sempre più difficile, dal nome Predictor. Il tutto da questa compilation Eastern Europe Experimental Underground 15 Survey. inizio decisamente rarefatto ed oscuro da questa compilation, come ho detto, Eastern Europe Experimental Underground 50 Survey, curata, concepita, costruita da Raffaele Pezzella. Si chiamavano Nula CC, un progetto proveniente dalla Repubblica Ceca. Già è partito Bardo Senetti Cube, nome difficilissimo, e questa è Predictor, Onda Rossa 87.9. il bizzarro nome Bardo Zenetti Cube, anch'esso dall'est Europa, dall'approccio più ritualistico rispetto al precedente Nula CC. A testimonianza comunque della vitalità e della efficacia di questa scena est europea. Anche la prossima settimana ci andremo ad ascoltare i tre ultimi progetti che vanno a completare questo compendio. E intanto salutiamo all'ascolto Wurnus Island dalla provincia di Asti, un grosso abbraccio a Massimo e Tiziana. Ci andiamo intanto in Olanda, lo facciamo con un progetto di una new entry per quanto riguarda l'Ante Zen, etichetta tedesca. Si chiamano Distal Duo, proveniente dall'Olanda. Al loro attivo questo secondo album dal nome Zand. Questa sera ci ascoltiamo una cover di C'è, un brano strafamoso dei Suicide, e poi un remix di un brano dei Keluar, progetto più minimal dark wave, un brano che si chiama Coraline Distal. Nuovo progetto dunque per quanto riguarda l'Antezen, si chiamano Distal. Peter Johan Nyland e Skramasax, questo duo proveniente dall'Olanda, questo è il loro secondo album dopo l'efficacissimo Pure di 2 anni fa, che in realtà uscì ancora prima con tiratura soltanto su vinile attraverso l'Enfant Horrible, etichetta proprio olandese. Un suono che soddisferà, che andrà a soddisfare soprattutto i pruriti degli amanti come il sottoscritto dei November Novelet. In questa circostanza ci siamo ascoltati una cover dei Suicide dal nome C'è, brano strafamoso, e un remix invece di Keluar, altro progetto che quanto sembra però già non più esistente, ex Linea Aspera. Un album Zand che si compone di 4 tracce originali, le rimanenti 7-8 invece sono dei remix di progetti decisamente sotterranei, e forse Keluar è uno dei meno ignoti. Vorrei anche menzionare proprio un'uscita di questi giorni per quanto riguarda i già citati November Novelet, un nuovo album che presto andremo ad ascoltare. 21:31, Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Il telefono, lo ricordo di nuovo, 0649 1750, e lo streaming rintracciabile sul sito www.ondarossa.info. Adesso ci trasferiamo in Germania, lui Mark Fischer, reincarnazione per certi aspetti del compianto Muslim Ghost, quindi avremo un approccio decisamente etnico, medio orientale e arabo, su base nettamente elettronico-industriale. Questo è il secondo lavoro con l'Antezen, ancora Antezen dunque. L'album si chiama Oppression, il progetto si chiama Siamgda. Da Oppression già è partita March Over City Deserts, e poi ci ascolteremo la successiva Lost Runaway. We'll be right back. Mark Fisher, dunque, dal 2000 fino al 2010 circa, le sue frequentazioni assai assidue in Nepal ed India, lo studio della Tablas, il fondare il suo progetto primario Store Frequency, e poi il connubio, la contaminazione con l'elettronica e l'approdo anche all'antezen, che ha dato alle stampe due lavori, Tremors e questo Oppression. Riperpetuando la tradizione del Fu Muslingos, scomparso qualche anno fa. Questa sera ci siamo ascoltati March Over Icy Deserts e Lost Runaway. E adesso ce ne andiamo in Francia. Lui è l'Erever Sanglant. Ci inoltriamo in territori diversi rispetto all'approccio etnico di Siamgda. Qui c'è del neoclassicismo, del dark ambient, ma il suono è abbastanza ruvido e industrialoide in questo Le Sang, dal quale estraiamo Combat 3 e Le Pact. Era dunque il francese Le Rêveur Sanglant, questo è il suo secondo lavoro, dal nome Le Sang. Un tamburo che detta il tempo e che è testimone di queste amare considerazioni sulla guerra e quindi le privazioni, il sangue, la sconfitta. Un messaggio antimilitarista che arricchisce questo interessantissimo lavoro, Le Sang, che esce per la Argentina Twilight Records. Torniamo nell'Europa dell'Est, arriviamo in Russia e lo facciamo con un progetto al femminile dal nome Dark Rad, lei è Yana Komaritsa. In passato abbiamo apprezzato ampiamente il lavoro di esordio dal nome Abnormal Love, che viene bissato dall'efficacia di questo Little Black World. Le tematiche affrontate non sono così nuovissime, ossia le perversioni sessuali e i viaggi negli abissi più profondi dell'io, ma il trucco è farlo bene e Dark Rad lo fa più che bene. Questa è All Is Wrong, seguita da Ras Velina. artista multimediale, Darkrad Jana Komarica. Vista dal vivo, un spettacolo veramente emozionante. Un progetto che presenta elementi di novità. E questo è il suo secondo lavoro, Little Black World, ricordo, che esce attraverso la tedesca Audiophob. Intanto si va a salutare Serena in ascolto qui sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ricordo il telefono 06 49.